Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia ed è un'altra giornata per la Borsa di Milano più che positiva, e quindi si conferma il recupero. A questo punto siamo sopra i 19.400 punti, 19.420, più 3,40% per Milano oggi, e stanno facendo belli affari, sta facendo un bel affare chi ha comprato dei titoli bancari, ma attenzione, sono operazioni da fare solo se ce la si sente e se si è abituati. Chi ha comprato i titoli bancari tre giorni fa, lunedì sostanzialmente, Unicredit adesso guadagna l'8,50%, Ubibanca 8,5% di rialzo, Intesa più 8,20%, Banco Popolare più 7,76%, Fondiaria più 7,40%, Monte dei Paschi più 6,80%, Mediolanum più 5,30%, Popolare di Milano più 5,22%. Quindi recuperi fortissimi su tutti i bancari. Di negativo non c'è praticamente niente, c'è solo Parmalat meno 0,40%. Vanno bene anche le altre borse europee: Parigi più 1,70%, Francoforte più 1%, Londra più 1,14%, ma sicuramente Milano è la migliore e almeno di 1,5% superiore alle altre. Dicevo, il rafforzamento dell'euro comunque la dice lunga sul fatto che sia tutta l'Europa a respirare e a recuperare. Non sono arrivate notizie in questo momento, in questi minuti, sul vertice europeo. Può essere che vada per le lunghe, comunque ci collegheremo e faremo un approfondimento nella seconda ora del programma. Vertice europeo che dovrebbe cercare di determinare l'atteggiamento futuro e definitivo nei confronti della Grecia, ma anche bloccare il rischio di un effetto greco o un effetto domino dalla parte del caso greco sul resto d'Europa. Dico dovrebbe, perché poi molte volte questi vertici europei ci hanno abituato a decisioni temporanee che non mettono poi la parola fine. Ancora, per quello che riguarda l'America, abbiamo detto più 1,12%, il Giappone questa mattina aveva chiuso sostanzialmente invariato. Partiamo subito con un gallo, dai. Vedo molti messaggi al 349-238-6666. Che cosa è successo di diverso rispetto a lunedì? Allora, lo avevamo già chiarito lunedì e anche venerdì scorso: dal punto di vista dei fondamentali di bilancio di questo paese non è cambiato nulla, non solo rispetto a lunedì o rispetto a venerdì, ma anche rispetto a un mese fa, quando lo spread era 100 punti in meno. Per cui è chiaramente un effetto speculazione, come c'è stato lunedì e venerdì scorso, ribassista, adesso al rialzo. Non registriamo, vedremo cosa uscirà dall'Europa, novità di particolare rilievo tali da giustificare il rialzo del 3,40%, ma se vi ricordate, non pochi ospiti nostri tra venerdì scorso e lunedì avevano detto che secondo loro era il caso di comprare azionario. Lo spread con il Bund tedesco, quindi la differenza tra quanto deve offrire l'Italia per trovare finanziatori per il suo debito e la Germania, considerata il paese più affidabile in Europa, è sceso a 250 punti, quindi siamo quasi 100 punti in meno, perché arrivò a 238 rispetto a lunedì. Anche qui non è successo nulla se non il cambiamento di rotta in chi investe in maniera speculativa, prima al ribasso e adesso al rialzo. Partiremo oggi anche dal turismo, ve l'avevo annunciato come tema, ma non solo. Vorrei continuare con altri titoli, perché è vero che i bancari guidano il rialzo, ma va molto bene anche l'automatica più 5%, Impregilo più 4,70, Telecom più 3,60, Mediaset più 3,60, Fiat Industrial più 3,30, Ansaldo più 3%, Diasorin più 2,60, Autogrill più 2,3, Eni più 2,1, A2A più 2%. E che il clima si stia rasserenando, perlomeno in questi ultimi 2-3 giorni, lo si capisce anche dal valore del petrolio, che è tornato per la prima volta da giugno sopra i $100 al barile. Tra l'altro, in tema di benzina, come i nostri GR vi hanno ricordato, oggi è stato sospeso lo sciopero dei benzinai previsto per la prossima settimana, il 26 e 27 luglio per la precisione. Ancora le trimestrali oggi uscite in Europa. Quello che ha pubblicato oggi Morgan Stanley, che insomma una delle ultime banche dopo Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo, Citigroup e JP Morgan, tutti con utili in aumento tranne Bank of America. Morgan Stanley ha chiuso il secondo trimestre con una perdita per azione di 38 centesimi su ricavi di 9,3 miliardi, una perdita superiore alle attese. Tra l'altro l'agenzia di rating Standard & Poor's oggi è uscita con un giudizio sul debito americano, ritiene un default degli Stati Uniti, quindi un fallimento del debito americano, improbabile, e afferma che ci sono almeno il 50% però delle possibilità che il voto sul debito americano sia tagliato nei prossimi 3 mesi. Sono tornati a salire in America anche i sussidi di disoccupazione a 418.000 contro un rialzo stimato in maniera più contenuta. Ripeto, dal vertice europeo non stanno arrivando notizie ufficiali. Da quello che si è capito, in una bozza di conclusione del vertice si delineerebbe un giudizio sulla Grecia come caso grave ma unico, e quindi che necessita di una soluzione eccezionale. Addirittura c'è chi ha parlato di un piano Marshall per la Grecia. Tra l'altro, probabilmente si arriverà a un prolungamento della durata dei prestiti per i paesi in difficoltà, quindi Grecia ma anche Portogallo e Irlanda. Sicuramente ha ragione chi scrive. Il fatto che si arrivi, quel mercato scommetta su una soluzione del caso greco definitiva, sta avvantaggiando tutte le borse. Parigi adesso guadagna il 2% e anche rafforzando l'euro, cioè l'area che tira non è quella di attacco all'euro né a maggior ragione di attacco ai paesi periferici o considerati periferici come l'Italia. Ripeto però che non c'è nessun motivo che vada al di là dell'umore speculativo per cui Unicredit adesso guadagni il 9,50% e perdesse lunedì il 7-8%, così come venerdì prima. Non è cambiato niente né nel gruppo Unicredit né nel gruppo San Paolo Intesa né nel gruppo Ubibanca. Ha ragione chi scrive, dice probabilmente pesa in maniera positiva il tentativo di accordo tra Angela Merkel e Sarkozy, l'incontro di ieri sera durato fino a notte fonda, le dichiarazioni e forse la scommessa che anche la Germania abbia capito che non si può continuare a tentennare sul salvataggio greco. Sicuramente, lo vediamo in tutta Europa, ripeto, la borsa più analizzata è stata Milano ed è anche quella che sta recuperando di più. Una notizia non bella arriva dal centro studi Confindustria, che ha registrato una crescita pari a zero del PIL italiano nel terzo trimestre di quest'anno e prevede una crescita bassa anche se non nulla anche nell'ultimo trimestre dell'anno. Ne parleremo con il direttore del centro studi Confindustria. Ancora la Confcommercio oggi ha illustrato uno studio in cui da un lato si rivedono al rialzo le previsioni sulla spesa delle famiglie italiane nel 2011, da un più 0,7 a un più 0,8%, al ribasso quelle invece per il 2012, ma fa notare lo studio della Censis Confcommercio: oltre il 50% delle famiglie italiane ha utilizzato tutto il reddito disponibile per coprire i consumi e quasi una su cinque ha speso più di quanto guadagnato, ricorrendo nella maggior parte dei casi ai propri risparmi. Allora, prima di arrivare poi al commento sulla ottima giornata di borsa e anche su quello che stanno dicendo a Bruxelles, avremo poi anche approfondimenti sul contratto nazionale dei bancari. Vedo molti messaggi su questo dopo la rottura di ieri tra i sindacati e il gruppo Intesa San Paolo. In ballo ci sono 8.000 tra ricollocamenti, che sono 5.000, e esuberi, che sarebbero intorno ai 3.000. Ne parleremo con il segretario generale della FABI a mercati chiusi tra circa mezz'ora. Prima vorrei però partire con un tema che affrontiamo ogni anno, anche perché ci dà il polso di come si muove il paese al di là della finanza, al di là della borsa, al di là delle querelle europee. Mi riferisco al turismo. 349-238-6666 per i vostri SMS. Ricordarlo fa sempre bene, incide per quasi il 10% sul totale del PIL italiano, in Gran Bretagna l'8,5%, in Germania 7,5%, la Francia ha un dato simile al nostro, la Spagna ce l'ha più alto, il 15% è il peso del turismo in Spagna. E stiamo parlando, come sempre facciamo, diamo anche le cifre: 2,5 milioni di occupati nelle varie attività turistiche e 300.000 imprese nel settore per quello che riguarda l'Italia. Ci hanno sorpreso alcuni dati usciti in questi giorni. Federalberghi ha segnato un boom di presenza a giugno negli alberghi, più 8,7%, e anche i primi sei mesi del 2001 in crescita. Allora, iniziamo con salutare i nostri ospiti. Grazie al presidente di Federalberghi e Confturismo, Bernardo Bocca. Buonasera, presidente. Buonasera a tutti voi. Grazie anche al direttore generale del Forte Village, Lorenzo Giannuzzi. Buonasera a lei. Buonasera. Con lei vorrei parlare di un tema un po' specifico di nicchia, cioè come voi affrontate la concorrenza internazionale in quella fascia, che è la fascia alta, altissima, in cui abbiamo visto comunque anche hotel andare in difficoltà in questi... In questi anni stiamo aspettando anche il presidente di Federturismo, Lorenzo Iorio, che dovrebbe arrivare a momenti. Abbiamo preparato, come sempre in questi casi, una scheda sui dati complessivi del settore. 349-238-6666 per i vostri SMS. Ai due ospiti già in collegamento e poi anche a Iorio, oltre ai dati congiunturali, vorrei capire se veramente questo vuol dire che la crisi non c'è, come scrivono alcuni, oppure sono dati positivi in un quadro di invece difficoltà e comunque ancora tensione sui consumi. La scheda prima di tutto. Resisto a tutto tranne che alla vacanza. Sembra essere questo il motto di quegli italiani che in tempo di crisi, pur di staccare la spina, sono pronti a rivolgersi ad una finanziaria. E non sono pochi coloro che scelgono questa opzione. Secondo l'osservatorio Codici, su circa 4.000 associati, almeno un terzo paga la vacanza a rate mensili dopo aver versato subito un 20-30% del costo del pacchetto. Ma la caccia alla vacanza a buon prezzo quest'anno passa anche dalla prenotazione anticipata. Quasi 2 italiani su 10, in leggera crescita sull'anno scorso, si sono mossi per tempo per fermare le vacanze di luglio. E che l'incertezza economica pesi sulle ferie estive 2011 è evidente anche dall'indagine di Federturismo e CISET sulle prenotazioni alberghiere. Al positivo aumento rispetto al 2010, sia degli ospiti italiani che stranieri, corrisponde un fatturato che rimane stabile a causa del calo della spesa media, soprattutto degli italiani. Ma gli stranieri che godranno delle bellezze del nostro paese, da dove vengono? Buone notizie in particolare da tedeschi, francesi e inglesi. Stagnante la domanda statunitense, mentre in netto calo sono i flussi dal Giappone. E per gli stranieri che arrivano, gli italiani che scelgono l'estero, dove andranno? Gettonato il Sud Europa, soprattutto Spagna e isole, Slovenia e Croazia, che beneficiano dell'incertezza in Nord Africa e in Grecia. Bene le partenze verso Nord America, Nord Europa e Centro-Sud America. Infine, la situazione in Giappone ha inciso negativamente sui viaggi verso il Sol Levante, Cina e Thailandia. Questi dati complessivi del settore. Allora, Bernardo Bocca, voi avete registrato un boom di presenze a giugno in albergo, più 8,7%, e poi anche dei primi sei mesi in crescita del 2%. Come sta andando luglio, per quello che si è visto intanto? Ma noi siamo soddisfatti. Innanzitutto vorrei dire che questo boom di presenze di giugno è dovuto soprattutto ai mercati stranieri. Gli stranieri hanno ricominciato a viaggiare, gli stranieri sono ritornati in Italia, soprattutto da quei paesi dove le economie stanno tirando, oltre che i paesi europei che abbiamo sentito prima, ci sono i paesi del BRIC, Brasile, Russia, India e Cina, che oggi stanno mandando molti turisti nella nostra penisola. Gli italiani viceversa hanno voglia di vacanze, si muovono, però ovviamente hanno una minore capacità di spesa e quindi spendono meno del turismo straniero. Ma voi notate una riduzione della presenza? Alcuni vostri associati ci dicono, ci raccontano che insomma magari si fanno ancora certe vacanze ma con una presenza, quindi il numero di giorni passati in albergo ridotto? Assolutamente sì, la gente ha voglia di muoversi, ha voglia di fare vacanza, deve però risparmiare e quindi cerca di accorciare il periodo di vacanza o comunque di scegliere tipologie di vacanze a minor prezzo, a minor costo. Ecco, dove notate i segni più interessanti in senso positivo? Cioè, da noi risulta che alcuni operatori, magari anche se non a livello completamente ufficiale, abbiano applicato una politica di prezzi abbastanza aggressiva, cioè c'è il prezzo di listino e poi accanto a questo tutto un insieme di prezzi per il last minute, per le offerte in certi periodi, anche di trattativa quasi individuale, oltre all'utilizzo di internet che permette chiaramente di avere una gestione delle capienze più efficiente. L'albergo è come una linea aerea, per cui ogni ora ha il suo prezzo, nel senso le camere che rimangono invendute a mezzanotte non si possono mettere a magazzino e stoccarle e venderle nei giorni successivi. Quindi ovviamente ci sono diverse formule di prenotazione, che sono le prenotazioni anticipate, le prenotazioni garantite o internet, che permette comunque al cliente di avere online la migliore tariffa per la struttura alberghiera. È chiaro che in un momento di crisi mondiale come quello che stiamo vivendo oggi bisogna sempre essere aggressivi sulle tariffe, anche perché ci andiamo a confrontare comunque con paesi che hanno costi di impresa inferiori ai nostri e che quindi ovviamente possono vendere a tariffe molto competitive. Per cui non cullarci sugli allori, curare la qualità, perché noi viviamo sulla qualità, ed essere sempre in linea sui prezzi di vendita. Per essere ancora più chiari, Bocca, ma voi notate un calo dei prezzi complessivi o non me lo può dire? Assolutamente sì. Voglio dire, l'incremento delle presenze, il più 8% di presenze di cui noi stiamo parlando sul mese di giugno, sicuramente non corrisponde a un più 8% di fatturato, nel senso, per riempire gli alberghi in molte destinazioni bisogna abbassare le tariffe. Diciamo che in molte destinazioni siamo ancora lontani dalle tariffe del 2006 e del 2007. E poi vorrei un commento su quanto è previsto in finanziaria. Cioè, abbiamo visto una dichiarazione di 5 giorni fa, del ministro Brambilla, a margine della presentazione del progetto Italia Turismo. Insomma, ha detto vi saranno aiuti alle imprese del settore turistico per uno stanziamento di circa 3 miliardi e 615 milioni di euro. La riforma del turismo da poco è diventata legge, ma insomma, questi soldi ci sembrano tanti. Veramente avrete 3 miliardi di euro? 3 miliardi e 600 milioni di euro? Il ministro Brambilla intendeva un'altra cosa, un accordo che il governo, le categorie e alcuni istituti bancari hanno fatto la settimana scorsa per crediti agevolati per le imprese turistiche per un importo totale di 3 miliardi e 600 milioni di euro. Quindi quelli sono soldi che le banche mettono a disposizione per il settore. C'è un accordo banca-impresa, insomma. Ecco. Sì, noi devo dire che al contrario di altri settori, aiuti ne abbiamo ricevuti sempre poco. Ce la siamo cavati da solo, diciamo che ce la siamo cavati egregiamente. Allora, visto che ci ha raggiunto, lo ringrazio anche il Presidente del Turismo, Renzo Iorio. Buonasera, Presidente. Buonasera. Vorrei capire se anche lei condivide dei dati tutto sommato positivi sul turismo in questo avvio di estate, ormai siamo quasi a metà, però in realtà se questo vuol dire che la crisi non c'è, oppure sono dati positivi all'interno di una cornice comunque ancora di estrema cautela, e poi il commento sull'accordo banca imprese, l'assenza di incentivi in finanziaria. Tre domande, tre risposte. Sì, se posso dire, devo dire è una ripresa che può essere la traduzione di quello che si è preso un sacco di botte, nel momento in cui non gliele danno più già gli sembra di star meglio. Beh, è così nella vita comunque. Esatto, no, c'è effettivamente, ma questo era da diciamo 6-7 mesi, si conferma una ripresa dei volumi, soprattutto una ripresa tirata dalla domanda esterna, quindi dagli stranieri, e una ancora diciamo inizio di contenuta ripresa dei prezzi. A maggio i dati parlano di una crescita dei tassi di occupazione intorno ai 7-8 punti e una stabilità dei prezzi medi di vendita, tirata dall'alto di gamma e in parte dall'economico del nostro punto di osservazione. Le risulta che i prezzi siano in calo, e quali settori stanno soffrendo di più, Iorio? Ma i prezzi sono diciamo oggi stabili, quindi hanno terminato di flettere dopo 3 anni di flessione, che ha portato a una riduzione di circa il 20% dai dati del 2007. Oggi chi fatica di più sono essenzialmente il balneare classico, quindi le destinazioni turistiche pure di balneazione, mentre invece le grandi città d'arte e i punti di attrazione forte del territorio riescono invece a segnare i primi movimenti di crescita. Mi permetto solo di sottolineare un dato che credo importante, che è il fatto che a maggio tutte le grandi città italiane hanno delle crescite importanti in termini di volumi di attività, quindi di presenze. L'unica eccezione è Roma, che flette di circa 2 punti percentuali in tassi di occupazione, e credo non sia un caso che è l'unica città che da gennaio ha iniziato ad applicare la tassa di soggiorno. Quindi bisogna stare molto attenti. Addirittura sul fatto che sì. Cioè se noi abbiamo i dati dell'osservatorio AICA a maggio, e nei primi 5 mesi dell'anno Roma è l'unica città che ha una flessione di 2 punti in termini di tasso di occupazione, mentre Milano cresce di 6, Napoli stessa cresce di 7, 4 cresce Firenze e 7 cresce anche Venezia. Sarà una circostanza, ma mi sembra un doveroso punto interrogativo. Ecco, in una battuta, la finanziaria, diceva bene la bocca, c'è niente se non poco, o poco se non niente, però importante l'accordo firmato tra banche e imprese del settore turistico, quindi strutture ricettive ma anche agenzie di viaggio e tour operator, che vale circa 3 miliardi e 600 milioni, se ho ben capito, di agevolazione, diciamo, di carattere creditizio in primo luogo. Io devo dire che condivido totalmente che nella finanziaria non ci sia nulla, e già nulla è un vantaggio rispetto al decreto sul federalismo, perché il decreto sul federalismo ha immolato sull'altare del federalismo gli alberghi attraverso la concessione della tassa di soggiorno. Sono un po' scettico, ma anche per esperienza del precedente accordo sul turismo con le banche, perché è facile fare un accordo e un principio. Bisogna andare a vedere poi quanto di quella disponibilità di credito è effettivamente erogata sulle imprese. Noi oggi vediamo che l'erogazione di nuovo credito su delle iniziative nel settore turistico francamente è piuttosto debole, quindi sarà importante verificare quanti di questi 3 miliardi effettivamente poi si trasformeranno in vero credito per le imprese. Quindi questo credo sia un punto su cui sarebbe opportuno anche avere uno. Allora, fermo restando che ci sono molti ascoltatori che dicono che non è vero che i prezzi si sono abbassati, quindi io ve la giro così a lei, Iorio, e anche Benabobocca, come mi arrivano al 349-238-6666. Vorrei capire una cosa con Lorenzo Giannuzzi, perché voi dirigete una struttura di alto livello e quindi, diceva prima Bocca, anche comunque il livello alto si sta confrontando con un'offerta molto competitiva. Pensate che il Forte Village da solo è la seconda azienda della Sardegna con 1000 persone che ci lavorano d'estate, e poi dentro il gruppo Eleganza c'è anche la Maddalena, Castelmonastero, Nessenese e Albarella. Vorrei capire una cosa: la concorrenza più forte da dove vi arriva, e se lei si ritrova nella descrizione in primo luogo di Bocca, e cioè gli stranieri hanno fatto la differenza, anche qui potremmo dire che c'è un effetto export, per quello che è l'export nel vostro settore, interessante. La domanda è estera, prego. Sì, no, vorrei precisare che penso che sia importante, diciamo, a consuntivo di capire che i dati probabilmente sono anche un po' drogati da tutto quello che è successo nei mesi invernali nella zona del Maghreb, che chiaramente ha fatto sì che venisse meno una destinazione. Quindi voglio dire, ecco, il discorso... Cioè meno Egitto, Tunisia, Tunisia, Libia, insomma, diciamo sta, era marginale anche prima, però meno Egitto, Tunisia, chiaramente l'Italia se n'è avvantaggiata, questo è sicuramente vero. Assolutamente, quindi voglio dire, il problema sarà poi di ritenere questi aumenti, perché immagino non appena la situazione si normalizzerà in quei paesi, visto che da un punto di vista proprio dei costi non riusciamo a competere con loro, è probabile che insomma sia un po' un fuoco di paglia, una, diciamo così, vittoria di Pirro, perché immagino che insomma... speriamo di no, però è vero che insomma c'è stato un effetto congiunturale di carattere insomma geopolitico, le tensioni nel Nord Africa avranno fatto disdettare molte prenotazioni o non farne altre, ma a lei risulta, insomma, lo vedete voi concretamente che la domanda è sostenuta dall'estero, quindi ho parlato di export come per altri settori? Assolutamente, perché quest'anno in più per quanto riguarda l'Italia si è aggiunta una complicazione ulteriore che ovviamente riguarda particolarmente gli alberghi diciamo così di vacanza, e in particolare quelli della fascia alta, perché si ricorderà che è uscita questa problema dello spesometro che chiaramente fa sì che per tutte le spese superiori a 3.600 euro ci sia l'obbligo, ecco, della notifica, quindi significa in effetti che diciamo gli alberghi di vacanza dal 4 stelle in su ovviamente sono stati fortemente penalizzati. Ora non c'è stato, come invece è stato per la tassa di soggiorno, un grande sollevamento da parte della categoria, perché chiaramente è un problema che riguarda solo una piccola fetta del settore, quindi cioè, chiaramente non ha, ma io credo che i danni siano ancora più sconvolgenti di quelli della tassa di soggiorno, almeno per quello che riguarda il mercato italiano. Per rispondere alla sua domanda le devo dire che in effetti sul mercato estero stiamo conoscendo un momento di grande consolidamento della nostra nostro mercato, quindi insomma, credo che ci sia senz'altro un elemento, siamo quasi a più 4 rispetto all'anno scorso, avendo fatto anche una scelta coraggiosa noi come Forte Village di non diciamo così fare una politica tariffaria al ribasso, cioè di non abbassare, è coraggioso non abbassare i prezzi anche per le lamentele delle volte dei clienti, in questo senso è coraggioso. Mi dica una cosa, Giannuzzi, però da dove arrivano questi turisti e la stranieri, e la concorrenza più forte anche in chi lavora sulla fascia di gamma alta, da dove arriva come paesi? Beh, paesi del Mediterraneo senz'altro, la Grecia, Cipro, diciamo che abbiamo un forte aumento da parte della clientela tedesca, del Nord Europa, un po' di meno, abbiamo un piccolo calo sul mercato inglese, perché ovviamente è anche quello più sensibile in questo momento a questa crisi economica, e ovviamente il mercato italiano, anche quello è leggermente in calo. Beh, mi sembra di ritrovare nella descrizione di Benabobocca, in quella di Renzo Iorio e anche nella sua, Lorenzo Giannuzzi, insomma, vari elementi che affrontiamo in questi mesi, e cioè anche per voi domanda estera, perché mi sembra di capire che il fronte italiano langua e comunque riduca le permanenze, qualche accordo, tentativo di accordi con le banche, anche vedremo poi l'importanza a livello strutturale. Ha fatto bene a ricordare Giannuzzi un effetto probabilmente momentaneo del Nord Africa, e dicono gli operatori calo dei prezzi, i clienti questo lo vedono meno, ma insomma sicuramente una stabilizzazione dei prezzi, chiamiamolo così. Grazie a Bernabò Bocca, presidente di Confturismo Federalberghi, a Renzo Iorio, presidente di Federturismo, a Lorenzo Giannuzzi, direttore generale del Forte Villa. Adesso c'è il metro, la pubblicità, poi la ottima chiusura di borsa, più 3,76% con Unicredito che guadagna il 10%, Ubibanca più 10%, Intesa più 9,5%, Banco Popolare più 8,70%, Monte dei Paschi più 7,60%, Fondiera 6 più 7,30%, Popolare di Milano più 6,50%. Insomma, venerdì e lunedì scorso abbiamo scherzato. Dopo il meteo, il commento. minuti, allora l'ottima dopo quella di ieri, ancora più positiva giornata di borsa, più 3,76%, ma recuperi fortissimi di tutti i bancari, devo dire bene anche Parigi, ma insomma Milano è la migliore, ha due punti in più rispetto a Parigi, 2,5 punti in più rispetto a Francoforte e Londra. Parigi infatti fa più 1,66, Francoforte più 0,95, Londra più 0,80, l'America più 0,90 e Milano più 3,76%. Allora, vedo qui molte, perché ognuno può scrivere quello che vuole in questo programma, al 349-238-6666. Allora, il segnale che è arrivato oggi è un segnale europeo, chiariamo, piaccia o non piaccia, tant'è che l'euro ha recuperato, a quota era sceso a 1,40, è 1,43,60 oggi. È un segnale che riguarda la Grecia, è un segnale ed è un messaggio che sta arrivando da Bruxelles, vedremo quanto durerà, che non conviene scommettere sul default della Grecia, perché forse finalmente anche la Germania si è convinta a garantire la Grecia di fronte a qualunque cosa, anche di fronte a un fallimento, tecnicamente già fallita, ma insomma la Banca Centrale Europea dovrebbe garantire l'acquisto di obbligazioni greche, le banche private tedesche e francesi vengono invitate volontariamente a riscadenziare il debito greco. Insomma, questo è il clima che ha permesso a tutte le borse europee di essere positive. Milano recupera più di altre, stando a quello che abbiamo visto come spiegazione, perché aveva perso più di altri. Poi ci sono anche i conti delle grandi banche d'affari americane, Morgan Stanley, ma anche le altre, che danno là complessivo. Paolo Paronetto, Radio Corriere, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Ti ritrovi in questa descrizione? Mi ritrovo sicuramente, le banche ovviamente sono il tema di oggi, a livello europeo il sottoindice ha guadagnato oltre il 4%, esatto. E quindi in Italia... Allora, così come l'Italia perde di più quando le banche vanno male, perché da noi le banche pesano molto sull'indice, guadagna di più quando le banche vanno bene, per lo stesso motivo. La variabile politica è oggi europea. Attenzione, perché c'è chi dice, ma allora ieri dopo quello che è successo in Parlamento con Papa, non è una cosa che riguarda i mercati attaccavano l'Europa e nel caso specifico l'Italia lunedì. Allora andiamo avanti, Intesa, Unicredito, insomma c'è poco da dire, Ubibanca più 10, Unicredito più 10, Intesa San Paolo più 9,5, Banco Popolare più 8,70, Monte dei Paschi più 7,60, Fondiera 6 più 7,30, Popolare di Milano più 6,5. Ancora sul fronte finanziario Azimut più 4%. Andiamo su chi bancario non è, e abbiamo visto molto bene anche un titolo, Fondiera Assai, che è una vicina sua personale, adesso ci arriviamo, ma anche abbiamo visto l'Automatica più 5,60, Fondiaria e l'Automatica. Quanto riguarda Fondiaria, l'accelerazione è stata sul finale della seduta, quando la società ha annunciato che nel CDA di Fondiaria Assai Ionella Ligresti ha comunicato di voler rinunciare a tutti i poteri esecutivi, quindi di fatto Fondiaria sta varando una più netta e più marcata separazione tra proprietà e gestione della società, che è una mossa che ovviamente piace al mercato, che la linea le best practice, come vengono definite, quindi ai migliori modelli di gestione delle società quotate. Il mercato ha apprezzato questa innovazione preannunciata tra l'altro da alcune indicazioni di stampa del Sole 24 Ore, e il titolo ne ha beneficiato guadagnando oltre il 7%. E per quanto riguarda l'automatica, che è stata tra i migliori del listino per tutta la seduta, anche quando c'era più incertezza, ad esempio questa mattina, qui riguarda il giudizio degli analisti, degli esperti del mercato, che iniziano a prevedere che l'utile trimestrale del secondo trimestre della società potrà essere migliore di quanto fin qui previsto dal mercato, quindi sono iniziati a fioccare dei giudizi positivi, in particolare quello di Merrill Lynch, quindi che ha consigliato di comprare il titolo con un target molto alto, 16 euro rispetto ai 12,41 di adesso, e tutti gli investitori hanno seguito. No, senti i miei mugugni, perché... No, ma lo so. No, perché c'è chi addirittura scrive: beh, invece la variabile politica c'entra anche oggi, il governo sta per cadere, la borsa vola. Attenzione, abbiamo detto lunedì e venerdì fino allo sfinimento che nel momento in cui i grandi fondi e quindi i grandi flussi di capitale decidono di attaccare l'Europa e l'euro, lunedì e venerdì ha perso parecchio anche Parigi, anche lo spread francese è aumentato rispetto al Bund tedesco. Comunque, decidono di attaccare l'euro, usano il canale più facile, che è quello italiano, e per attaccare l'euro. Nel momento in cui invece si ritiene che sia meglio comprare in area euro che vendere, si va a comprare laddove più c'è terreno, l'Italia. Obiettivamente non legherei al voto di ieri l'andamento della borsa di oggi, addirittura girando al fatto che siccome il governo sta per cadere la borsa vola, non lo so. Mi sembra un po' troppo, traffico e poi gli altri titoli. Paolo Paronetto, 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, di nuovo in diretta, c'è chi scrive: lo spread è sceso tra titoli di debito italiani e tedeschi, la differenza tra quanto rendono è scesa a 250 punti, era schizzata fino a 338 lunedì, anche questo è un buon segnale. C'è chi scrive: la speculazione ha capito che è finita la pacchia e si stanno ricoprendo le posizioni ribassiste, giustissimo, questo è in chi investe giorno per giorno, addirittura all'interno della stessa giornata. Altri titoli oltre a quelli citati, bene in generale anche Mediaset più 3,70, nessun effetto lodo su Mediaset, recupera a 3,22 mi sembra, no? Sì, è stato proprio in linea con l'indice, quindi diciamo che oggi l'andamento di Mediaset non è stato mosso da nessun fattore al di là di quello della rialzo globale degli indici di piazza affari. Bene anche Telecom più 3,66. E ancora continuiamo con Fiat Industrial più 3,35, Ansaldo CTS più 2,82, Diasorin più 2,70, Autogrill più 2,20, A2A più 2,20, Eni più 1,90%. Alla fine Parma leggermente negativa, il miglior titolo Olidata più 13,5 e poi Ubibanca più 9,97, scusatemi non vedevo, e poi il peggior titolo Cobra Automotive meno 5,31, Bioera che era cresciuto molto, meno 4,50%. Grazie a Paolo Paronetto, Radio Corriere del Sole 24 Ore. Noi restiamo in tema di banche, ma in questo caso di bancari. Ieri la rottura del contratto tra Intesa San Paolo e i sindacati. Come dicevamo, i bancari, e stiamo parlando in questo caso del rinnovo del contratto per qualcosa come 340.000 persone, tra l'altro molti ascoltatori anche di questo programma in questa fascia quando l'attività in banca chiude. Ma l'attualità è data non tanto e non solo dal fatto che si debba ancora arrivare al rinnovo del contratto dei bancari, quanto al fatto che ieri si è interrotta la vertenza sindacale per quello che riguarda il gruppo Intesa San Paolo, ossia 8.000 dipendenti. La procedura avviata dalla banca già a fine maggio, cioè subito dopo la presentazione del piano di impresa, si è chiusa senza un accordo. Tra l'altro in ballo ci sono 3.000 esuberi e 5.000 lavoratori da ricollocare. da amministrative ed attività commerciali, numeri che secondo i sindacati andrebbero rivisti, e per quanto riguarda invece, se abbiamo ben capito, gli incentivi all'uscita volontarie, servirebbe un sistema di incentivazione diverso. È chiaro che i dipendenti del gruppo sono 100.000, ma questa vertenza riguarda, come abbiamo spiegato, 3.000 esuberi e 5.000 lavoratori da collocare, quindi stiamo parlando dell'8% circa della forza lavoro complessiva. Siamo in collegamento, lo ringraziamo, col segretario generale della FABI, che è la Federazione Autonoma Bancari Italiani, il più grosso dei sindacati dei bancari, Lando Sileoni. Buonasera. Buonasera, buonasera a lei, grazie. Allora, 8.000 dipendenti da ricollocare o esuberi o da ricollocare su 100.000 dipendenti. Perché avete rotto le trattative? Allora, intanto non si sono rotte le trattative, le trattative si sono interrotte in quanto sono terminati i 40 giorni previsti per legge, all'interno dei quali era auspicabile trovare un accordo. Ok, perché non avete trovato un accordo? Non abbiamo trovato un accordo perché c'è una differenza sostanziale in termini politici sulla gestione delle 3.000 uscite e dei 5.000 lavoratori da riconvertire a livello professionale. Noi sui 3.000 uscite chiediamo all'azienda degli incentivi economici e chiediamo innanzitutto che le 3.000 uscite debbano essere volontarie, e l'azienda intende invece applicare dei licenziamenti attraverso la 223, e qui su questo argomento noi siamo fermamente contrari. Per i 5.000, la 223 ci può spiegare cosa prevede? La 223 prevede che in caso di riorganizzazione, in caso di ristrutturazione o in caso di un'azienda che non produce reddito, c'è una legge dello Stato che permette alle aziende di licenziare. Ecco, io la vedo abbastanza in modo diverso chiaramente dal gruppo, un gruppo che si pone con l'ambizione, con la giusta ambizione di essere la banca di riferimento del paese, intende licenziare 2.500 lavoratori, e da un altro lato c'è sempre il gruppo Intesa che elargisce 485 milioni di euro come montepremi per 650 top manager, e la vedo una vera contraddizione sia in termini politici sia in termini sociali. Sì, allora noi sui i mega bonus della finanza americana, ma non solo, abbiamo fatto una battaglia durissima in questi anni. Devo dire che però un gruppo, anche mi faccio difendere, il gruppo Intesa San Paolo, come sempre faccio l'avvocato del diavolo in questi casi, sì. Un gruppo ha anche tutta l'autonomia e la libertà per decidere se distribuire 485 milioni di euro a 650 top manager e allo stesso tempo vedere però che ci sono sacchi di produttività in altre parti inespresse. Però quello che vorrei capire è questo: voi avete un contratto nazionale che permette tra l'altro di avere anche, chiamiamoli così, sussidi di disoccupazione ai vostri dipendenti del mondo bancario importanti, e 5.000 sono i lavoratori da ricollocare. Mi sembra che su questo i problemi siano minori, ho capito bene? Sì, ha capito perfettamente bene. Il problema è che noi siamo disponibili ad approfondire il problema dei 5.000 lavoratori da ricollocare. È chiaro che per entrambe le partite, cioè per i 3.000 dove noi chiediamo assolutamente la volontarietà con incentivo economico, e soprattutto per i 5.000, noi intendiamo di avere delle contropartite a livello contrattuale. Vogliamo, per esempio, sui 5.000 conoscere quali saranno le persone coinvolte, dove saranno localizzate e quindi la loro futura destinazione, sia in termini territoriali e sia in termini professionali, e vogliamo anche sapere quali saranno le nuove agenzie, le nuove filiali che apriranno, quali saranno quelle che accorperanno e soprattutto quali saranno quelle che in qualche modo chiuderanno. Sul fronte delle 3.000 uscite, noi chiediamo all'azienda la conferma a tempo indeterminato di tutti i precari, che oggi, come lei sa, sono assunti a tempo determinato. Quanti sono i precari? Guardi, sono diverse migliaia. Il problema è che noi, come abbiamo fatto in tutti i piani industriali, ne chiediamo la conferma, e normalmente tutti i piani industriali che abbiamo affrontato fino ad oggi nessun gruppo si è sottratto a questa politica, quindi vogliamo una politica di nuove assunzioni e della conferma di tutti i precari di oggi. Mi può far capire, perché vedo molti messaggi al 349-238-6666, qual è la vostra proposta sul fronte esuberi rispetto alla proposta avanzata da Intesa San Paolo? Intesa ha 3.000 lavoratori che entro il 2013 maturano la finestra pensionistica, non vuole mettere a disposizione un incentivo e soprattutto l'azienda li vuole obbligatoriamente mandare, collocare in pensione, perché ritiene che abbiano raggiunto i 40 anni di contribuzione. Ecco, noi non possiamo utilizzare due binari, un binario dove i lavoratori che hanno maturato la pensione siano obbligatoriamente pensionabili appunto da parte dell'azienda, vogliamo che sia messo a disposizione un incentivo economico e che in tutta tranquillità saranno loro a scegliere se rimanere all'interno della, appunto, dell'azienda oppure se scegliere di andare. No, mi scusi, ma non ho capito, ma se hanno maturato l'età per la pensione qual è il problema? Il problema è che si va in pensione con i termini stabiliti appunto dalla legge ed è assolutamente inconcepibile che le banche, in questo caso appunto il gruppo Intesa, mandi obbligatoriamente in pensione dei lavoratori che hanno magari ancora almeno 6, 7, 8 anni appunto di lavoro. E quindi voi volete, uno scivolo per gli ultimi anni, diciamo, capito? Esattamente, esattamente. Come regolarmente è avvenuto in tutti i piani industriali che sono stati concordati con le organizzazioni sindacali fino ad oggi, e mi riferisco a tutti i principali gruppi. Non capisco perché il gruppo Intesa si debba sottrarre da questa politica. Questo per quello che riguarda il gruppo Intesa San Paolo. Poi c'è il fronte che ricordavo prima della trattativa nazionale, cioè il rinnovo del contratto nazionale per i dipendenti del mondo bancario. Per inciso, però, voglio ricordare una cosa: sul fronte dirigenti, che non sono solo i 650 top manager, managers a cui lei faceva riferimento, il gruppo Intesa ha fatto sapere di aver cambiato anche il modello di remunerazione, l'ho fatto sapere ieri, e quindi un nuovo sistema di incentivi praticamente introduce, se ho ben capito, in una parte della componente variabile dell'incentivo, del bonus, che è costituita da azioni, e quindi almeno il 50% della componente variabile sarà costituito da azioni, almeno questo dovrebbe essere, no? Guardi, un'altra cosa che noi abbiamo letto estremamente in termini positivi è la creazione della banca unica da parte recentemente della banca del gruppo popolare, in quanto con la banca unica spariscono la sovrapposizione di consigli di amministrazione, spariscono le banche del gruppo, cioè ci sarà un'unica banca su tutto il territorio con i costi di gestione, con i costi amministrativi che sicuramente saranno dimezzati, con un unico consiglio di amministrazione. Ecco, io mi auguro che il sistema bancario prenda esempio da quello che recentemente ha fatto il gruppo Banco Popolare con il suo... Sì, adesso dobbiamo interromperci perché c'è il GR e il Meteo, poi mi racconta invece il GR, scusi la pubblicità, poi mi racconta invece qual è la vostra proposta sul contratto nazionale. Lasciamo che la governance però venga decisa dai vertici, abbia pazienza. Sileoni, tra l'altro ricordo che domani, sempre di banca, si parlerà anche nella guida del Sole 24 Ore, forse una cosa che non le farà così piacere Sileoni, ma insomma come tagliare i costi in banca, fa piacere a noi clienti della banca, tutto quello che c'è da sapere per risparmiare sui servizi delle banche è in omaggio, visto che parliamo di soldi, è in omaggio con il Sole 24 Ore di domani, e continua anche, ma ne parleremo più avanti, lo speciale risparmio mercati dopo il vertice europeo. I qui aggiornamenti avremo nella seconda parte del programma. Resti con noi Sileoni, GR, poi la conclusione con lei e poi il centro su di Confindustria e Bruxelles per vedere come butta il salvataggio ennesimo della Grecia. Sette minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vorrei concludere l'intervista con il segretario generale della FABI, il più importante sindacato dei bancari, Lando Sileoni. Allora, dottor Sileoni, abbiamo capito il motivo del blocco delle trattative con Intesa San Paolo, soprattutto sui 3.000 esuberi, voi volete lo scivolo e quant'altro. C'è però anche un altro capitolo che è aperto, ossia il contratto nazionale dei bancari. Sono 340.000 persone coinvolte, è scaduto lo scorso 31 dicembre. Se ho ben capito, voi chiedete circa 205 euro mensili in più, che vorrebbero dire il recupero dell'inflazione passata, quella programmata passata, presente anche per tutta la durata del nuovo contratto. Come butta? Guardi, abbiamo effettuato un incontro il 13 luglio in ABI dove abbiamo presentato la piattaforma. Siamo distanti anni luce rispetto alla posizione delle banche. Noi abbiamo presentato una piattaforma dove vengono richiesti un aumento di 205 euro mensili, che non è altro che il recupero dell'inflazione pregressa e reale e di quella attesa. C'è un incremento del 7,30%. Ci siamo attenuti all'accordo governativo del 2009, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali, dall'ABI come rappresentante delle banche, e quindi vogliamo assolutamente che quell'importo, che nel 2009 è stato sottoscritto anche appunto dall'ABI, sia in qualche modo rispettato all'interno del prossimo contratto nazionale. Bene, in bocca al lupo, come sempre facciamo, ai dipendenti del gruppo Intesa San Paolo, affinché si trovi un accordo il prima possibile sui 3.000-2.800 esuberi, ma in generale a tutti i 340.000 dipendenti del settore bancario, del loro rinnovo, che appunto prevede, chiedono i sindacati, 205 euro mensili pari al 7,30%, se ben capito Sileoni, ossia il recupero dell'inflazione pregressa attuale e futura, no? Esattamente, noi non ci siamo inventati niente, abbiamo soltanto chiesto il recupero dell'inflazione. Quello che ci tengo a dirle è che i tempi stanno cambiando, siamo consapevoli anche noi della crisi che sta colpendo il sistema bancario, però chiediamo ai banchieri una vera riflessione di carattere sociale sia sull'argomento stipendi e stock option e soprattutto sui costi operativi e amministrativi delle aziende, sulle consulenze esterne, sugli intrecci societari. Ecco, vogliamo un confronto a 360 gradi, perché siamo consapevoli che dove c'è chiarezza e dove c'è una condivisione di, appunto, di responsabilità, poi sicuramente certi risultati arrivano con più facilità. Noi ce lo auguriamo, grazie a Lando Sileoni, segretario generale della FABI. Grazie a lei. Adesso l'altro tema individuato è importante oggi in una giornata, ripeto, perché vedo molti messaggi di chi si è appena messo in collegamento. Ottimo l'andamento di borsa, più 3,76% con tutte le banche, più 10% Bibanca, più 10 Unicredito, più quasi 10 9,5 Intesa San Paolo, l'8,70 il Banco Popolare, il 7,60 Monte dei Paschi, il 7,30 Fondiera Assai, il 6,50 la Popolare di Milano. Sono tutti rialzi. E domani la guida, come resiste, oltre alla guida su come tagliare i costi in banca, anche la guida al speciale risparmio e anche alla gestione, il manuale anticrisi del nostro Fabrizio Canimberti, che ce l'ha raccontato in diretta. Passiamo adesso all'altro tema, perché ancora un minuto di pazienza prima di andare a Bruxelles, perché oggi sono arrivate indicazioni importanti sulla crescita economica dell'Italia. E allora, prima di arrivare al vertice europeo sulla Grecia, vediamo gli sviluppi, però concentriamoci sull'altra notizia che riguarda l'Italia del giorno, ossia il rapporto del Centro Studi Confindustria, l'analisi mensile sull'andamento della crescita economica e anche del mercato del lavoro. Scrive oggi il Centro Studi Confindustria: la crescita sarà quasi nulla nel terzo trimestre, dopo che nel secondo si è avuto un aumento dell'1,6% della produzione industriale. Insomma, crescita quasi nulla non è una bella notizia. Il direttore del Centro Studi di Confindustria, Luca Paolazzi, buonasera Luca. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Crescita quasi nulla vuol dire, per capirsi, quanto potrebbe calare la crescita prevista per il 2000 o essere rivista a ribasso la crescita prevista per il 2011? In realtà non abbiamo fatto stime, chiaramente le prospettive sono di un'attività ferma nei trimestri in corso e nel successivo, dopo un secondo trimestre che invece era stato positivo, di rimbalzo intorno, come stimato dalla Banca d'Italia, lo 0,4%, è difficile adesso, diciamo, fare una valutazione del dato medio anno, però appunto sicuramente stiamo ben al di sotto dell'1%. Ieri abbiamo visto una stima del REF in fine anno chiuso allo 0,7. La crescita, tu dici che insomma se sostanzialmente questo trimestre non si è cresciuti, quello che si è chiuso è il prossimo, nemmeno, si va a valutare la crescita che voi chiamate già acquisita in sostanza nel corso dell'anno. Fondamentalmente sì, chiaro che però parliamo ancora di qualcosa che sta succedendo, certo. D'altronde i numeri che sono usciti anche stamattina, che non sono ricompresi in congiuntura flash che abbiamo diffuso, sono in netto peggioramento per l'intera area dell'euro, con un dato PMI che è vicino alla sostanzialmente a stagnazione, un dato che riguarda il settore manifatturiero che appunto per l'eurozona è in contrazione, non succedeva da 2 anni, con un dato tedesco pure solo leggermente espansivo nel suo complesso, ma di nuovo con attività e ordini manifatturieri in diminuzione, quindi siamo diciamo in una situazione che esternamente al paese è in rapido deterioramento, molto più rapido di quello che ci si attendeva, e visto che le nostre sorti sono legate alle esportazioni, difficilmente possiamo migliorare. Ecco, tu già hai dato una chiave di interpretazione. Comunque c'è un rallentamento della domanda esterna, che è l'unica domanda che in questo momento abbiamo nel paese. E questo rallentamento non è, per carità, riferito solo ai prodotti italiani, ma è generale a tutta l'Europa. Che giustificazione ha? Una saturazione nei paesi che hanno guidato in questo momento la ripresa, cioè Sud America, Est Pacifico e anche alcune parti del Middle East, del Medio Oriente, oppure c'è dell'altro? Ci sono varie cause e vari diciamo fattori. Per quanto riguarda i paesi emergenti, ci sono in atto politiche restrittive volute per raffreddare l'economia e quindi tenere bassa l'inflazione, che ricordo in Cina è salita ben oltre il 6%, e in effetti il dato uscito oggi per l'economia cinese parla di recessione dell'attività industriale in luglio per la prima volta da 3 anni. Ancora questo non si è visto nei numeri aggregati, tant'è che la produzione industriale in giugno aumentava ancora del più 15% e oltre annuo, e il PIL nel secondo trimestre è salito del 2,2% sul trimestre precedente e di oltre 9% su base annua, però sicuramente queste politiche restrittive agiranno e quindi fermeranno l'andamento dell'economia cinese. Lo stesso sta accadendo in realtà in Brasile, in misura minore in India. Per quanto riguarda la Russia parliamo diciamo di una stabilizzazione su ritmi di crescita di lungo periodo che non sono elevati quanto quelli dei paesi che abbiamo citato in precedenza. Questo per gli emergenti. Negli Stati Uniti la crescita è molto bassa perché non si crea occupazione, quindi redditi disponibili delle famiglie ristagnano e i consumi ristagnano. E dunque, diciamo, visto che i consumi rappresentano circa il 70% del PIL americano, l'economia non va bene. Ed è diciamo comunque la prima economia del mondo, occupa in termini di dollari correnti circa il 30% del PIL mondiale. Per quanto riguarda l'eurozona, abbiamo in atto una crisi dei debiti sovrani che sparge sfiducia, aumenta i tassi di interesse là dove invece avremo bisogno di tassi di interesse più bassi, e quindi diciamo sale sulle ferite dei debiti pubblici nei paesi periferici, il costo del denaro è elevato in Grecia, Spagna, Portogallo, Irlanda, ma ultimamente purtroppo con i BTP che sono scesi anche in Italia, e quindi c'è un costo della raccolta che sale per le banche e di conseguenza un costo dei prestiti che le banche effettuano alla clientela più elevato, e questo ovviamente non aiuta economie che già sono in difficoltà. Aggiungo che queste economie necessariamente devono fare manovre di aggiustamento dei conti pubblici e come noto sono manovre che incidono restrittivamente sull'economia. Quindi, con la tua solita chiarezza, Luca, ci hai spiegato dei vari fattori che esercitano un peso in questo rallentamento, che è italiano ma è anche europeo, e le variabili dei paesi emergenti appunto si chiamano rischio inflazione, quindi docce fredde o comunque raffreddamento della crescita economica. In America c'è un dato sull'occupazione, l'abbiamo ricordato anche oggi, che ancora non riparte, e poi l'Europa le prese con da un lato il rialzo dei tassi di interesse, dall'altro le manovre finanziarie sul debito che vengono chieste da Bruxelles ma anche dai mercati. Vorrei capire, mentre intanto ringrazio perché ci ha raggiunto in collegamento anche il corrispondente di Radio Corriere Sole 24 Ore da Bruxelles, Antonio Pollio Salimbeni, buonasera anche a te. Buonasera a voi. Vorrei capire da Luca Palazzi, dopo il traffico, se l'eventuale accordo di Bruxelles sulla Grecia potrà avere un effetto positivo oppure sarà abbastanza irrilevante. Dopo il traffico, però, 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per l'ultima parte di Focus Economia. Allora, Luca Palazzi, vedremo poi cosa uscirà, adesso ne parliamo con Antonio Pollio Salimbeni, ma un eventuale accordo sulla Grecia, visto che ne stanno discutendo i vari paesi europei a Bruxelles, può cambiare questa situazione di congiuntura che tu hai così ben delineato, oppure è tutto sommato irrilevante rispetto alle variabili macroeconomiche? Assolutamente, se si dovesse andare a un accordo che non è un nuovo temporeggiare, non è un nuovo rinviare e evita qualunque forma di ristrutturazione del debito che porti in realtà a sfiducia, stile Lehman Brothers, avremo un effetto molto positivo sulla fiducia e quindi probabilmente avremo, diciamo, una ripresa sui mercati finanziari che ha impatto positivo sulla ricchezza delle famiglie e avrebbe, diciamo, toglierebbe questa cappa di incertezza notevole su quello che potrebbe succedere e inoltre appunto allenterebbe la pressione sul costo denaro su questi paesi. La stessa Germania, ricordiamo, sta risentendo in realtà di questa crisi debitoria perché appunto gli ordini all'estero stanno calando, la produzione industriale è ferma, addirittura in riduzione, e quindi i tedeschi devono fare i conti con i costi di una soluzione che sia, diciamo, sistematoria in un modo lungimirante, quindi non ci faccia riparlare di crisi greca dopo l'estate fondamentalmente, o peggio durante agosto quando i mercati sono sottili e quindi le fluttuazioni dei prezzi elevatissime. Beh, allora speriamo che almeno da lì arrivi un, e lo scopriremo tra un attimo, per quel poco che ancora si sa, che arrivi almeno da lì una rassicurazione. D'accordissimo con te, per quel poco che vale la mia opinione, che l'effetto ci potrà essere solo a patto che sia veramente messa la parola fine sulla soluzione greca e non sia di nuovo un prender tempo, guardando un po' l'opinione pubblica, il voto interno di Germania e Francia e un po' alle esigenze reali della stabilità economica europea. Grazie al direttore del Centro Studi Confindustria, Luca Palazzi. Grazie a voi. Allora, vediamo di capire se è arrivato o se sta, se si sta delineando un accordo sulla Grecia, questo balletto, questo sirtaki continuo a cui non si riesce a mettere parola fine. Antonio Pollio Salimbeni, ci siamo, e per ci siamo intendo dire in maniera definitiva, oppure come teme e temeva Luca Palazzi, la versione peggiore sarebbe un accordo che dura lo spazio di un'estate, a settembre di nuovo a trattare sulla Grecia. Che sensazione hai? Ma la sensazione è che entro stasera una decisione sarà presa, che sia duratura lo vedremo. Certo, le bozze di documento finale che circolano da un paio d'ore vanno in questa direzione. E non si tratta soltanto di indicazioni, decisioni che riguardano la Grecia, ma vanno anche un pochetto più in là. Per esempio, si allude al fatto che il fondo salva stati, quello European Financial Stability Facility, che è quello che è l'organismo che intergovernativo dell'Eurozona che presta materialmente, raccoglie sul mercato i bond e poi li presta il denaro ai paesi in difficoltà, dovrebbe occuparsi anche della ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie attraverso prestiti ai governi, inclusi i paesi che non sono sottoposti a salvataggio oggi. E questo sarebbe una soluzione. E quindi dentro c'è anche l'Irlanda, per forza, il Portogallo, ma vorrebbe dire mettere, se ho ben capito il tuo ragionamento, mettere le mani avanti anche nel caso di un attacco a Spagna e Italia? Beh, naturalmente non si fanno nomi, ma insomma, certo. Qui si parla di ricapitalizzazione delle banche, le banche italiane dovrebbero farcela da sole. Beh, sì, dopo spagnole, le ultime ricapitalizzazioni ormai sono a livello... Appunto. No, voglio dire, segnalavo questo come indicazione che si cerca di andare un po' al di là del caso greco. Beh, la borsa... Comunque... Prego. Che comunque, voglio dire, ha bisogno sul quale si prenderanno delle decisioni. Non so se l'avete già... Adesso vi arriviamo. La borsa oggi ha creduto, perché tutto il settore bancario è andato molto bene in Europa, con rialzi medi intorno al 4%, da noi dove pesa di più ha portato l'indice a un più 3,80%, ripeto, rialzi tra il 5 e il 10% per le banche italiane. Abbiamo visto però anche una bozza di programma in cui le banche dovrebbero essere chiamate su base volontaria a sostenere la Grecia. Uno poteva immaginarsi una penalizzazione delle banche a questo punto. Ma sì, intanto le banche sono qui, diciamo, nei corridoi a lato dello stanzone dove sono riuniti i capi di Stato e di Governo, ci sono i rappresentanti delle banche, Charles Dallara, il numero uno del Financial Institute of Finance, che rappresenta 400 banche, c'è BNP Paribas e quant'altri. Il problema è che qui si dice si sta lavorando su una soluzione a tre lati: scambio di bond, scambio di obbligazioni, le vecchie obbligazioni greche che scadono, sì, che sono anche scadenti, cioè, e che sono anche scadenti, hai ragione, sono anche scadenti oggettivamente, e il rollover, cioè l'allungamento delle scadenze, e il buyback, cioè la possibilità di riacquistare da parte dello Stato greco, di riacquistare il suo stesso debito. Oppure la possibilità per il fondo salva stati di acquistare direttamente sul mercato secondario il debito. Si tratta di capire qual è il mix, se saranno utilizzate tutte e tre queste soluzioni o una, o quale sarà quella fondamentale. Nell'ultima mezz'ora è circolata con insistenza l'idea che il fondo salva stati possa in realtà nel caso in cui l'operazione dovesse portare a uno stato di default parziale selettivo, anche per molto temporaneo, per qualche giorno, il fondo salva stati potrebbe garantire i bond greci in modo che la Banca Centrale Europea possa continuare a finanziare le banche greche. Questa sarebbe la soluzione miracolo emersa. Sì, perché le banche greche hanno come garanzia le obbligazioni greche. Se le obbligazioni greche vengono meno, non riesci più a finanziare le banche greche. Però se queste obbligazioni greche se le compra anche per un momento temporaneo il fondo salva stati, questo, diciamo, sarebbe un'ulteriore cortina di sicurezza intorno alla Grecia. No, mi fa un po' sorridere il fatto che mentre i leader europei sono riuniti nei corridoi lì attorno ci siano tutti questi esponenti del mondo bancario, un po' come certi parenti dei pazienti in ospedale, non voglio capire dove si andrà a parare. Grazie intanto, poi vedremo a che ora stasera arriverà la decisione finale. Grazie intanto al corrispondente di Radio Corriere sulle 24 ore da Bruxelles, Antonio Pollio Salimbeni. Grazie a voi. E allora chiudiamo in maniera un po' più allegra oggi, visto che il 3,76% della borsa c'è, domani un altro giorno, lo sappiamo, anche chi scrive, l'euro in continuo recupero a 1,43,71, e chi ha comprato banche e titoli bancari lunedì oggi festeggia e come. Noi invece vediamo appuntamento domani dalle 17 in poi con un'altra puntata di Focus Economia da Sebastiano Barisoni. Intanto buona serata. Radio 24, la passione si sente.